visto che ci sono. C'è nessuno su 10? Sul canile 10? No, c'è nessuno. E se ti sentono parlare già entrano loro. Cava cava. Adesso sto uscendo con un watt e mezzo. Quando ti sta arrivando il segnale, Tony? Sì, sempre 9.30. Cava cava. Ciao. Cava cava. Adesso come sono io? Come ho passato? Sai che l'hanno lo Smith. È così al massimo? Ti ho detto che eri sempre inchiodato da prima, cosa vuoi fare? Facciami tutto. Addirittura già, dai. Per un passaggio mi ha inchiodato lo Smith. E nel secondo, come fa a vedere la differenza? Sei arrivato a fondo scala già. L'ho dato 4 batte, l'ho dato. 300. Cosa? 300 watt. Ma magari che Dio ti intendia. 4 watt del baracchino. Ho passato tutto quanto RF power. Ah, ma col gas stai andando. Ehi. Non ti dà al minimo 4 watt. Ehi. Massimo. Non so. Adesso la massimo. Ma va a vedere quanto ti dà. Dovrei attaccare, aspetta, voglio vedere la cosa. Allora. No, non me l'hai fatto, sì, ma va, ecco qua, allora. Con esattezza 8 watt, con picchi positivi a 10. E 9, e picchi positivi non è a 9, boh, basta. E quindi invece è così, già? Sì, era il passaggio che hai fatto prima. Così, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fondo scala, se 9, 30. Anzi, così, che sono basso al mazzo. Sì, abbassa tutto. Guarda, sono basso, adesso lo metto, guarda. Ecco, come sono adesso? Sembra di dubbio più forte perché vedo lo smitter che si sposta ancora, un pelino, ma si sposta. Siccome non c'è 9,60 qua, non te lo può mai segnare, arriva sia a 9,30. Già va bene, però dai, l'ho dato con distanza con altre persone che dice già aumenta. Lo so che aumenta, cioè si vede, si sente anche la radio più forte. Lo so, non so se mai che normale, però aspetta. L'ho spento perché giustamente mi piace uscire liscio liscio. Il mic normale per il Galaxy è come se avessi l'amplificato, è come il Magnum, poco fa mi hai sentito col Magnum quando stavo parlando con Lecce. Eia. Com'era la radio? Era buona, 5 volte amplificata. È un apparecchio, capito, non è il microfono è normale. Comunque sappi una cosa, con il signor 5000 mio figlioccio, quando ero al telefono, forse riesco a fare qualche scambio. Capito. Praticamente gli do quello, il Midland che mi aveva dato Franco di Sorso, insieme preamplificato da tavolo, e mi dà quel baracchino che tu vuoi. Sì, vabbè. Ho già perso la speranza. Però mi senti tu da fuori? Ma il macchina a tavolo non glielo dare, cazzo, le vedi più 5 anni. È buono, so, poi vediamo. Oh. Intanto poi ci ha svagato. Non c'entra, ma me l'ha dato a me così, sennò era di più. Lo saccio, lo saccio. A proposito, poi infatti l'ho chiamato, ho detto, tanto ma lo è. Ma che cazzo ti stai facendo? Ma ha detto, e cioè, cazzo, vado su Facebook e ti trovo tu che stai vendendo la stazione, i Galaxy, 500 euro. Ma ne hai pagato 300, no 350, no 300 mi sarei pagato a Gian Maria, e non dire cazzate. Tu hai capito male, no, io l'ho capito molto bene. Perché tu mi ha dato 350 e lui a me era 300. E adesso lo stai vedendo 500, ma siccome c'è la fotografia di tutte e due? Tutte e due stai vedendo, no, solo i Galaxy. Vai, fini a venire a Bupazza, dito che lì sei anche toccato, la capisci? 500 lo sta. Si sta vedendo tutto. Solo i Galaxy, ha detto 500 euro. Ma chi glielo prende? Beh, allora lì c'è un altro, ma 500 euro. E poi infatti c'era a fianco con Emanuele, quello di Bulldozer, 400 euro. E Claudio ha detto che sono 450, hanno passato di 50 euro e mi ha messo 400. Il che è voto 440. Io sinceramente quando compro una cosa non me la vendo, me la tengo in bocca. Se a me potrei fare scambio con la cosa che piace di più a me, se no io non vedo niente. Vabbè dai. Cavaga, ma vabbè, vuol dire che lo dai a me e poi tu prendi o poi lo dai a me? Tu cosa mi dai? Radio no, radio queste qui, rimangono tutte qua. E che max mi dai? Così faccio la copiata. Sì, domani. Sai che a me i vincolari non mi piacciono. Cioè, da televisione vabbè. Se lo avete 50 volte la manuale di vendermelo, vabbè. Non me l'ha venduto, cane morto. Manuele è fatto così. Poi devo dare una cazzata, la conosco già. Vabbè. Ma qua non faccio manco più ritina, faccio più ritina e mi agi qui. E capita. Io basta comunque. Ma adesso dimmi tu cazzo, ci ho comprato questo cazzo di Galaxy da Gian Maria. 300 euro, ho detto di cosetto. E mi ha fatto. E lo sai che io lo so, ho fatto così, compro un pezzo e vendo l'altro. Boh, per te si dice a venderlo. Trova il pollo, magari già glielo compro. Ti ho toccato a te a voi. Si è fatto bene, si è fatto bene, dice il Ren. Tutto che si è fatto bene. Luca, tu sì. No. Sta bello. È proprio così. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Giannetto e la mattina mi sveglio sempre puntini, puntini. No, la fai nel letto. È sudato, voleva dire lui. Antone. Eia. Salutami a tutta tola. Eia, io te la saluto. Però non vedo, buh. Non è ancora rientrata, sono il 10. Doppio rum Coca Cola, invece che rum whisky e coca facciamo doppio rum con la Coca Cola. Adesso abbiamo anche cognatino, avanti cognatino. Allora, c'è un mal di collo, ragazzi, allucinante. Ieri era un vento, ero seduto al bar una mezz'oretta con la figlia di Giovanna. Intanto quel vento entra, ragazzi, sembra così, una specie di maestrale. Non so, comunque vabbè, cambiamo discorso, perché se c'è qualcosa che non ascolta poi si ingelosisce. Non penso ci sia nessun genere che si ingelosisce, perlomeno. Non vorrei che fosse una partita che ci vuole avvelenare. Non vorrei che ci vede col partito ci vuole avvelenare, non si sta che bene. Luigia. Te immagino. Avanti, mi è sembrato anche che ci fosse Luca. Luca, ci sei? Luca, tu come? Avanti, Popozzi. Sì, ho sentito una portante, mi pare, che stava schiacciando. Chi vuole entrare? È piccolina. Ah, se è piccolina, già va bene. Se vuole entrare, possiamo entrare, se no rimane a parte, tanto è piccolina. Già lo credo, giallo. Beh, è troppo immaginato. Aspetta che sto mettendo la modesta di fronte da una parte, che poi dopo ci scendo a Tommy giù a fargli fare la pupù. Portati. E tu l'hai già portato già? Così. E mi ci bisogna portare, la prova a porta se ci colchire giù della pura. Ci va a portare 8. Comunque mi sarei portato. Che si fa il viaggio anche in ascensore ci fa. Mi hai dormito qua vicino a me. La pellicchera sta facendo. Eccolo, anche lì sono addormentato sotto il sole, però sono messo su quella pietra espansa, quella come si chiama, pietra pubblica, ma quella di Genera, e quella tiene il calore e me lo brucia, capito? Allora ci metto là sopra. E un attimo, un messaggio. Ok, ripeto Antonio. Sto mettendo la mondezza dentro la busta, cioè già le visite te raccolte separate, cioè adesso metto tutto in uno, così dopo ci scende il careggio. Aspetta un attimo. Però Antonio, io ho trovato avanti ieri, che eravamo insieme, una chiamata di Giovanna, alle 23 qualcosa. Ah, boh. Ah, no, aspetta, forse è quando gli hai dato il numero del telefono l'altro giorno, che eravamo con che c'era anche Giovanni, che stavamo parlando. E ti ha fatto scudere il telefono per avere il numero del telefono suo, te hai capito? Perché più o meno quell'ora era, boh, ricordo più. che poi ce l'ha da dici fuori tu. Sì, a quell'ora, a quell'ora. Era 11:30, se ti ricordi bene. Ecco, non mi capito. Basta così fretta, allora manco quando stai bene, ma se ne accorgi. Sì, sto ancora pensando a quella Befana, cazzo, che mi ha portato la pizza in mano. Mamma mia, cazzo. Con quel busto in testa e quei guanti, prova a ridare. E vabbè, da, quella tua bacca lì. Sì, ma cazzo. E faceva mettersi il boccaio le pinne, cazzo, faceva prima. Ma se le mette così per educazione, cosa? Oppure io ho pensato che aveva qualche problema alle mani, boh. Ah, boh, non lo so. Mi ha detto Giovanni, dice che fa tutto con quei guanti, non si cambia per niente, gli porta le pizze, gli mette le pizze e poi gli si butta la mondenza, fa quello, fa quell'altro. Me l'ha contato ieri. Incassa pure i soldi, tocca tutto. Sì, ah. No. Ha bisogno di per cortesia, si tocca i guanti. Ma lui come si stava, signor Franco, lì? Era tranquillo, senza macchina, senza nulla. Ma lì da mamma mia, se trova qualche bambino piccolino che ha 2 anni, si spaventa per vedere una cosa del genere. Sembra la piova, ragazzi. E poi con la cuffietta in plastica che c'è là sopra, in testa, per carità. Maria, boh, Star Trek. Sì, e poi con quella mascherina da coso. Beh, gli mancava solo mettere il pinne e il boccaio, era a posto. E che ci vuoi fare? Comunque, all'ultimo lo vuoi sapere? No, dimmi. Leoncino mi ha bloccato su WhatsApp. Picca, come va? Strano. Allora se l'ha presa proprio. L'hai rubato l'amore. Sì, l'hai rubato l'amore a nessuno. Quando non si piace non c'è da nulla. Ma io non ti vedo chi mi ha bloccato, eppure lo vorrei, qualche giorno lo sento, lo chiamo e dico, ma perché l'hai bloccato su WhatsApp, perché cosa dici? Forse non mi risponderei neanche, boh. Sì, quando lo vedi io chi è al limite, e cosa vuoi che dica io? Boh, ti ha bloccato su WhatsApp, boh, cioè non ne ho nessun bisogno perlomeno io. Non ho capito, no, che senso ha, se ho un conto che ci bisticcia un po' alla cattiva, beh, ha fatto ti blocco, vai, non ammara, dai. No, mi ha mica pensato. Ho detto semplicemente di non disturbare più e basta, ma basta. Non altro, c'è bisogno di bloccare su WhatsApp. Appunto mica avete bisticciato, non è successo niente. Infatti, ecco cosa, non c'è più la foto sua. Te l'ho mandata la foto. La foto ti ho mandata. A te io ti ho mandato stamattina la foto. E tu dito tuo. Ah, non ti ho fatto caso Brita, perché c'è il telefono nel comune. Sono passato in PMR con lui a parlare. Siamo stati quasi 1:30, una cosa del genere di notte, quindi mi sono diventato alle 2. A Torre, 3/4 di popolazione non c'è riuscito, 0, sono importante. E poi fino a lì l'ha sentito. Adesso scendo, sì. Adesso sì. Questo microfono bisogna che stiamo scendo giù, per forza. Via che riprendo quello a tavolo che c'ho giù la Giovanna e così almeno esco meglio, questo proprio, se lo schiacci bene non esce, sto cavolo di microfono, già è un bellino ma un bel pianificato per male, solo che c'ha quel difetto lì e basta. Vabbè, aspetta che preparo quella cosa, dai, dammi 3-4 minuti, chiama Gianni se è rientrato. Vabbè, io sono qua, non c'è problema. Gianni ci sei. Vabbè, dai, aspetta, fai. Ci sono. Mi si è abbassato il radio. Ho detto un attimo che voglio vedere una cosa. Aspetta, io ne scappo. Com'è che ne scappo questo microfono? Ecco, eccolo. Che mi è arrivata una cosa, aspetta. Ti sei abbassato il radio poco fa. Gambia. Attenzione, Tonino Cavattatti. Sta ancora un po' perché poi alle 5 esco. Come te? Sono ancora un po', alle 5 devo uscire, dai. Dove è? Che parte? Lì col baracchino dovevo andare. E vabbè, forse anch'io non lo so, poi vediamo. Prego. Ora. Gianni, Poputti. Prova? Chi è? Chi è che sta provando? Avanti. Attenzione, sul binario 10 c'è qualcuno che abbia. Gianni. Ho chiamato a Bidoncino, Che? Perché mi hai bloccato il contatto? È perché io ho eliminato tutte le persone, basta, non ne potete più sapere niente. Allora sei geloso adesso, per quello che... Dice no, non mi interessa più niente, di su qua. Ho tutto eliminato, e vabbè, allora rimane che era solo, buco ce lo guarderò. Guardi, ci... Deve essere l'hai fatta grossa. Ma perché cos'era? Roba sua era? Non lo so. Questo si chiamava un po' di persone che non... Che è giusto, ovvio. Che mi ha detto a tutti, ha detto. Ha fatto pulizia a tutti. Adesso non so se era riferito anche a te, Antonello, poi non lo so. Ma non c'ha il mio numero. Tu ce l'hai il tuo numero? Io sì. E quello se può sapere se c'è per la fatta sua. Adesso gli blocco la sua chiamata, l'ho bloccata anch'io. E così dove ci ho fatto. Non ne vuole sapere più niente di nessuno. Però sei geloso. No, è roba che mi ha bloccato, non ho fatto niente. Perché devo fare pulizia di tutti, non mi serve più nessuno. E beh già. Guarda che mi faccio una pennichella, se no qui sono troppo stanco. Già sono stanco da stamattina. Mi faccio una pennichella e poi magari più tardi, quando rientro ci sentiamo, dai. Ciao. Ok, dai, con la pennichella ci sentiamo. Ciao, ciao. Ebbene Daniele, lo Gariello, sì, l'entrato va male 10 minuti fa, quanto va a fare? Cappa di rosmetro, e come si sta Varu, male? Sacca di dai, come di vento c'era? Ebbene, c'era da immaginarselo lui. E vabbè poi, verso le 3:30, 4 è stato a migliorare, no? C'era sempre il venticello. Diciamo, una giornata un po' così, un po' noiosa. Per stare al mare sì, Lu. Dai giornata. Ah, fan cuffia. Dai giornata di stare in spiaggia, oggi per andare in campagna. Ho capito. Bene, mi ascolti, sì. Cava, cava, ma non sei a casa tua? No, sono 25. Sì, già va bene tu. 9 qualcosa sei, dai. Il segnale. È che questo microfono è tanto innesca, secondo me mi metto. Parla ascolta. Non parla ascolta ogni tanto, secondo me. Sbaglio posizione, allora inizio a innescare. Questo quale stelo c'hanno? Il 48? No, questo è l'87 tu. L'87, sto provando una cosa. Che. Tempo fa ho preso un rosmetro, lo stavo provando se funzionava giusti, cioè funzionava, siamo tutti allo stesso modo calibrati, dai. Perché mancare? Allora, ho preso la Fusaro, un Albrecht. Tu mi sei comprato il Diamond SX200, l'avevi richiesto anche, sì. È vero. Va bene, non è che sia al massimo, comunque vanno benissimo. No, già vanno bene quelli, quando vado già vanno a prendere anch'io. Ne ho 3, cavolo, di questi rosmetti, questo è il terzo. Ne ho 2 ZG e questo qua. Vabbè, questo è piccolino, va bene per la macchina, queste cose qua, dai. Sì, vabbè, poi su chi entri tu. Lo so, ma... Io sono a periodi, non mi attacco troppo, mi stacco del tutto. Sì, vabbè, ma anche lavoro ti fa stare lontano dalla radio. Quello è il problema, Lu. Quello è. Mi stavolta sono di nuovo in giostra. No, sì, di più stavolta. Non mi aspettava. Ho capito. Ma dove sei tu? Appunto sul posto o dove ce l'ha il coso? La sede? Stavo lavorando a Bombolo. Da Milano? Cava Rosmetro. Sei anche vicino allora? Vicino, già vicino. No. Siamo di bassi. Un chilometro da casa, è vicinissimo. Marco, ma tu l'avevi venuto la 502, ce l'hai ancora? Venduta, Luigi, è un anno. Ah, peccato. Adesso sarà buoni 3 anni che l'ho venduta. E di più. Era Marco piccolino. Quanto anni ha Marco adesso? 7. Allora, il tempo passa. Sta volando lui. Vola. Sono. Scappa. Cara. Aspello. Stai andando forte qua, Sei su più del più 30. Perché sono attaccato lui. Aspetta un secondo. Cos'è Daniele che l'hai chiamato Marina? Dimmi. Daniele. Chi è Luca lì? Come stai ascoltando? Come la radio? Buona? A Puglia. KK. Aspetta, guarda, E adesso com'è? Lui sempre buona? Sì. K di Rosmetro. La Puglia. Bene staranno? No, non tantissimo, sono in sesta. E quanti sono? 300. Cosa? 300? No, scendi, a metà. Ah, 150. La gallina accanto, KK. Sgancia, vabbè, vediamo quanto arrivi. Guarda, così che è liscio, con 2 watt sono. Santiago, non la picchi di 9,5. E prima? Sul più del più 30. Ah, c'è la differenza, lui. Ma anche la radio migliora, è più forte. Vabbè, lui, giustamente. È che mi fa la radio troppo forte, se aggancio e lo metto pure a un watt, e inizia a innescare. Ehi, che vuole entrare avanti? Che è? E me cla. Ma cos'è, ciao? Cos'è, Daniele? Un B300 quello? Quello è quello di Massimiliano, il CTE, ciao cla. Ma tipo il B300 là? La B300, sì. Come quello della ZG? È 300 watt in SSB che poi ne dà 230, 240, 220. In AM ne dà poco più di 150. Però nel mio è così, 160 ne dà modulati. KK, buonasera. Mi ascolti Luca, sì? Sì, molto chiasso. Ehi, sto andando col Milan. Midland 76574 base, l'ho comprato stamattina, l'ho preso stamattina da Gianni Capri 2, cazzo, mi ha fatto veramente un grandissimo regalo, ma bello, veramente bello, cazzo quanto è bello, ce l'ha uguale Tonino, infatti ho consultato a lui per vedere come andava e mi ha detto mettici l'MB più 5 perché va benissimo alla grande. Infatti sta facendo bene. Anche da te, Dani. Si conferma, Claudie. Devo abbassare il volume, sennò mi fai sordo. Addirittura. XS. Bello, c'è le bande laterali anche. L'MVP5, questo è quello che ho preso modificato da Gigi, esce un bel bene con tutte le radio, anche con il Polman esce bene. Ce l'ho a 3,5, 4. Tono a 2. Come da manuale. Già funge Claudie, puntella. Non avevo dubbi, questa radio vintage, cazzo, sono veramente ottime, fanno veramente molto molto bene. E in Belugaria, al mare non sei andato? Sì, claro, al mare. E non si stava bene, dai. c'è un po' di svento. No, non niente, pranzo in campagna, amici. Domani, da domani, sciarremo, da domani 30 gradi. Da domani 30 gradi, da domani mi pongo in ferie, me ne ando tutti i giorni al mare. Insomma, mi sono messo la potenza alle 50, non mi sono bruciato oggi. L'unica cosa, mi sono bruciata la testa, annoramara. La fronte, la testa, perché mi sono fatto i capelli a corti dietro, a pelle, mi sono bruciato. Io ce li ho quello di scimmia. Io dopo rasato, abbiamo preso una macchinetta nuova. Sono andato al barbiere, quando è? 2 settimane fa neanche. O se, boh, 10 giorni fa. Non mi piaceva, non ne aggiungo gatti tutti. E mi ha giocato a culo di scimmia. Come sono andato dal cugino di Marina? In via del caffè, la Brava, e mi sono fatto un taglio corto corto, là. Ai fianchi, però un po' lunghetti sopra. Quei pochi che mi sono rimasti, anche a me. E niente. Già vanno bene, là. Almeno fresco. Già va bene, già va bene. Almeno consumiamo poco shampoo e poco asciugacapelli. Adesso te la mando, guarda quanto è bella questa radio. Ma bella veramente. C'è anche le bande laterali, che cazzo c'è? Lucariello 2, eccolo qua. Cazzo, già ne consumo shampoo qua, eh. Adesso Marina adesso, shampoo e balsamo. Per pochi capelli che ho. È la piastra. E il piastro pure allora. Allora, te l'ho mandata, l'ho fatto prima di piazzarla, ed è bruciata un altro ovrio. KK, vabbè Daniele, tutto bene? Tutto a posto, Claudio, tutto a posto, noi tra un po' vado di nuovo in battaglia. Insomma, quanti a me sei tu? Cazzo, le domeniche sembra che c'era sempre il mio nome in barca. Facevano incolla, è rimasto, mi pare che è ancora incollato a Sosso nella bacchetta al mio nome, cazzo blu. Tutte le domeniche ero sempre in turno io. Ho di turno reperibile, inno a male, ragazzi. Qua io da reperibile sono diventato effettivo adesso. Oh yeah, qua. Sono già forse un mese, sono anche qualcosa in più, o sabato o domenica. O domenica o sabato. Vabbè. Bisogna prendere quello che c'è, altrimenti è un bel casino. È bello che ti piace? E non ho manco vista qua. Ho il telefono su, mi sono sdraiato 5 minuti nel divano, su a picchi. Perché non riuscivo a dormire di là, mamma, poi c'era un caldo, come a terra, c'era freschezza, l'aria era frizzante, fresca. E ho preso il telefono a controllo, là. Ehi, c'è fretta? No, io ho stato benissimo. Pranzato, anche riposato, mi sono alzati poco fa. Va bene. Cosa stavo dicendo? Daniele, grazie. Bisogna fare quello che esce, altrimenti è un bel casino. Bella, vintage. Sì, quello è il Midland 76574. È del 1976. 574 Midland base, c'ha le bande laterali, non ha l'FM come tutti. Anche il Polman non c'ha l'FM, anche il DAC, anche l'altra, però c'hanno tutti le bande laterali. No, bella, bella, bella, esteticamente molto, molto bella. Cazzo, sei bella. Ho visto. Ah, Daniele, tu vuoi fare le urgenze o trasporti? Non lo so, cosa fai? Io sto facendo in questo periodo trasporti da un ospedale all'altro. Eppure durante la notte li trasporti? Dal pronto soccorso per i reparti a fare le consulenze. Ma in sedia a rotelle? Come capitano, barelle, camminanti, sedia, di tutto. Ma ti metti l'auguri da un padiglione all'altro, così? Cappa, per dire, se uno è al pronto soccorso e fa visita oculistica, vai, lo prendi e lo porti alla secca bianca in oculistica. Capito. Da solo in due siete? No, in due, poi ci sono anche le urgenze, e lì viene tutta la banda musicale. Capito. Aggiungo. Vabbè, dove va, purtroppo. È un casino, è un lavoraccio, eh. Beati che lo fate. Ci sono tanti che... A me piacerebbe farlo, magari. quando ho tempo, però lì ti chiedono molto di più. Ma io, cos'è, mercoledì, mercoledì sera, sono entrato alle 8 e ho messo di sera, di pomeriggio, vabbè di sera, alle 8 di sera, avevo messo piede in sedia alle 6 del mattino. Vai giù, casino, vabbè. Ma se tu anche vai entri alle 8? Sì, stasera entro alle 7, faccio 7, 19.07. Cazzo, fino a domani mattina alle 7. E allora, cla, sempre andando e tu rendi, Gigi la trottola. Ma si buca la sedia a carrozzella e a codo, dirò, te lo buono. Magari, cla, magari, cavolo i rotti, cazzo, la facevo in barella. No, no, cazzo, lo ricordo io, l'avevo fatto in pressa, tutte le discese, l'abbiamo mollata io, vai, inizia a andare, già sto levando. Magari, ma fanno per fesseria alla fine, c'è molta gente, cioè le cose urgenti, uno o due te ne possono capitare, se ti capitano pure. Io lo so, ma faccio, ha fatto mia moglie a casa di riposo, lo so, poi con gli anziani soprattutto ci vuole molta attenzione e molta voglia di fare, se no è un bel casino. Guarda, l'altra volta mi è capitato questo ragazzo che stava usando il cos'è, l'acqua a raggia, cosa era, un diluente, l'ha messo nello straccio, come l'ha rigirato di nuovo per togliere lo straccio, e dice che ha schizzato l'occhio e gli bruciava l'occhio, ed è rimasto dalle 3 del pomeriggio fino all'11 di notte in Chivi all'ospedale. Al pronto soccorso? Sì, a morire almeno. Stavo per perdere il pollice io, per un'unghia, stavo andando in cancrena, l'unghia aveva preso infezione, era trascurata, iniziata a gonfiarsi, ero in pressione di pus, mi stava praticamente tutto il braccio nero mi stava diventando, capito? Ero lì aspettando, alla fine ho detto, mi chiama per c'era la guardia, ho detto, mi chiama al pronto soccorso, mi chiama per favore il medico di turno, perché guarda come mi sta facendo il braccio. Adesso mi decido, mica, venga subito immediatamente qua, venga subito, adesso mi hanno inciso, ma già lo sono uscito, per carità di Dio, una puzza non si poteva stare. Già lo so, però se... Ripeto, c'è gente che va per fesserie e poi si lamentano pure, ci sono dalle 9 del mattino, dalle 3 del pomeriggio sino a tarda serata. E dice ancora mi hanno controllato. E fino a vedere prima di te quanta gente è venuta con le urgenze. Non so come funziona, secondo me funziona molto male, perché se uno arriva lì, cioè ci deve essere gente pronta a prendere il paziente, non si può stare cazzo dalle mia figlia per un problema alla gola è rimasta dalle 10 sino alle 4 del mattino, ma come si fa? Cioè non esiste una cosa del genere, perché non c'era l'ottorino, ma cazzo me ne fotte a me. Qualcuno ci deve essere a ricevere l'utenza, altrimenti è un casino, cioè non si può. Infatti già hai visto il continente, canta niente muri, ero pronto soccorso, quando arrivi rumidi così a muro. Sì, è così, cla. Poi ci sono certi reparti, adesso sta il pronto soccorso che lì è la prima visita, se poi devi fare visita specialistica ci sono reparti dove il medico di guardia il reparto non lo trovi, il reparto lo trovi a casa, quindi c'è cioè, mezz'ora di tempo prima di arrivare. Figurati, con quello che hai, grazie, ci dia molto. No. Mala sanità, non c'è niente da fare, mala sanità. E beh, Lugari è, non sei uscito, cioè non devi andare da nessuna parte. No, mi docciato, cremato, da nessuna parte qua. Io sono rientrato ieri a luna e a quarta casa. E io stesso, sono rientrato, ho fatto la doccia alla barba, per domani. Oggi non me l'ho fatta, tanto dopo andare da nessuna parte, vado a casa in campagna, quindi. Va bene così. Poi domani si rinizia gappa. Nuovo giro, nuova corsa. E vabbè, io non ho questi grandi impegni, stando una mano a mio cognato, quindi niente di... già è tutto in famiglia. Ma faccio le commissioni, le cose, c'è da fare, poste, banca, facce, eccetera, eccetera, poi... Allora il pranzo già sono a casa, non vado più a lungo, giusto per ammazzare la mattinata. Va bene, quindi confermate che mi ascoltate bene. Si conferma, Cla, si conferma. Sì, va benissimo. Vabbè, allora, ho fatto un buon acquisto, dai. Vediamo un po' se c'è Claudio, Claudio di Muros. Attento, che ho arrugginito, ascolti Claudio lo Sparviero. Non c'è, non c'è, deve essere ancora dormito. E chi è questo? Cosa? Basta stare arrivando, cazzo di me non vai geniali, non so manco chi sei. No, sei tutta scariche, chi sei? Ehi, appena appena ho sentito delle scariche, chi sei? Mangiando chi? No, adesso no. Poi Gianni, Gianni Rischetto. Eh sì, era un po' scherzo. No, un vintage ho preso stamattina da, da un amico di Muros, che l'ho portato, poi me la cambiamo il commutatore dei canali che me lo sta mettendo nuovo, perché me l'ho comprato a lui. C'era qualche canale difettoso, me lo sta mettendo nuovo. E ho preso questa 76574 della Midland base, ma molto molto bella. Esce veramente bene. Bella, io ho 40 canali con le bande laterali. Funziona veramente bene, sì, ma non quel piaciuto, che sta proprio bello, ma bello veramente, sembra un HF, molto bello. E che se per Claudio mi ammazzeni, l'altro giorno sono rimasto un'ora al telefono con Antonello. Abbiamo fatto una bella chiacchierata ricordando il passato e ci conosciamo una vita. Poi Claudio ogni tanto mi chiama o mi manda su WhatsApp qualche messaggio per vedere appunto che alla caccia anche lui di qualcosa, e quindi sto cercando di portarlo nella, nella dritta via, prima di te c'è qualche cantonata strana, gli ho detto più o meno cosa prendere, quali sono le radio che possono andare bene per qua, capito? Va bene, va bene. Daniele, lo senti a Gianni Rischetto? Basso, Cla, cioè, basso di radio soprattutto. Comunque, salutoni, dai Gianni, ben sentito. Cazzo, non c'è il radio già, boh. Allora, alza la chitarra radio. Ah, cazzo, rotture di balle, mamma mia. Guarda, una cosa, io... Allora, quel problema io l'ho avuto quando ero a casa di mamma a Porto Torres, ma ti parlo nel lontano 76, 77, 78, quegli anni lì. Cazzo, entravo nel televisore del vicino, una rottura di male, toccava il muro a mamma, ne faceva poco di casino. Guarda, un casino faceva questo uomo allucinante. Poi ho riuscito a spostare l'antenna perché avevamo il terrazzo vicino. E quindi ero riuscito a spostare l'antenna un po' più distante e non lo disturbavo più. E basta, ma l'ho vissuto anch'io una rottura di balle. Poi io guardo, da quando sono a Sassari, io sono arrivato a Sassari nell'83, nell'ossi 83, perché nell'85 mi sono sposato ed ero già residente a Sassari a casa di Succi. Ma quando io qua ho messo l'antenna non ho mai rotto le scatole a nessuno. Mai, anche con alte potenze, perché non c'ho niente davanti, capito? E quindi non dà modo e adito di disturbare. Però io ho una rottura di balle, il TVI, una rottura di balle, non ti dare di tregua, non ti dare di tregua, ragazzi, mamma mia. E tu Daniele, non disturbi a nessuno, no? No, Cla, grazie a Dio, per adesso sembra tutto a posto, anche perché poi, tra virgolette, l'ho sollevato agli altri 2 metri da com'era. Quindi adesso è ancora molto più libera. Già va bene, già va bene, già va bene. Michi, fatti vuoi e alla cornetta del telefono, Luca. Vero, Maico? Ho capito, Cla. Ho detto, tu non fai TVI alla cornetta del telefono o della maschera da bagno? No, faccio TVI a un tappo di un gomodo. E anche tu, quando a casa di tua madre c'era quel rompiballe, quello vicino? Ehi, vabbè, che avevo il televisore legato a miscela. Già, sì, lo già me lo ricordo. Avevo il televisore a cavo di bugnetta. Già, è così. Una volta che tu le dai adito di disturbarli, anche se tu non ci sei, che stai lavorando o non sei in radio, sempre tu sei. Ti sto dicendo io, guarda, ero ragazzino, ma la mattina andavo a scuola, la sera lavoravo al cristallo come barista e qui non c'ero mai a casa, rientravo la notte, 9:30, alle 10 in chiusura, io e Antonio Ruzzetti eravamo i baristi allora. e Giustina c'era, non so se te la ricordi, al Battista. Cazzo, visto sempre, mi toccava la mamma e diceva, siamo qui, c'è, non c'è Pasqualino, non c'è, sta lavorando, non v'è, inutile mortecci, sempre zucchendi, ma se non vedi quella televisione, ma venga a casa, è tutto spento, non c'è, sta lavorando, sempre io, Iruga, sempre io. Ora in modo dovrebbe leggere, ti ascolti, adesso non glielo dico più, la prossima volta che bussa al muro, ah, che bussa al muro, a disturbare la mamma, vengo gatto nel sacco, a Iana avrà qua la pittorra. Mamma mia, evita la Giovanni, grazie poche stravaganti. Perché è così già, è così, cazzo, ogni volta che succede qualcosa, capito? L'antenna tua, ma la cosa che ha fastidio tirare l'antenna, non ci ho compreso. Che fastidio tirare l'antenna. Io figurati che avevo la Super Regibus a casa di mamma, lì via Cavour. Quando sono andato via, mi sono trasferito a Sassari, quell'antenna è rimasta almeno per 7-8 mesi. Quando non veniva neanche che cosa, non c'era disturbo della televisione, io mi ero già sposato, capite, mi ero già sposato. Quando non vedevo la televisione, ho telefonato alla mamma o suonava il campanello. Fino a quanto video fa vedere la baracchina, ma sì, Pasqualino è stato in Sassari. Alla fine mamma mi ha detto, Pasqualino, fai mio piacere, bugati, ghiscia antenna, toglila. Sono dovuto scendere una domenica mattina, con Antonello noi l'abbiamo tolta. L'abbiamo tolta, capito? Perché non si poteva lasciare, non si poteva lasciare. Ma chi se no, ogni rottura di balle ci telefonava la mamma, capito? Per dirti com'è la gente, mi. Vai, Daniel. KK, dai, ne approfitto che vi saluto e ci ascoltiamo alle prossimine se coincide. Ciao Daniel, saluto a casa a tutti, te lo sai, amo Gian 30, dico Alghero. Stammi bene, buon lavoro, buon tutto e già ci aggiorniamo. Vai Ugarie. Ugarie. Anzi Ugarie l'ha fatto a mettersi il balsamo nella barba. Quindi insomma hai fatto un buco già, hai fatto un buco in lei ragazzi. Ti è tornata la passione, vabbè, che ce l'hai sempre nel camion. Te l'hai messa a casa, fanno trattarlo, gas. E hanno rotto le scatole già, te lo sto dicendo. Tu questa antenna ti devi rilassare all'impicco, più in alto possibile, e cercare di stare lontano dalle antenne TV, perché sennò ti crea problemi. Ti crea problemi. Ti crea problemi, povero caro titano, mi lamento, ragazzi, nella rottura di male, ogni volta era a farrarsi, era a zuffarsi. Quando era in via Sassari, era a zuffarsi. Una cosa allucinante. Tutto il palazzo è disturbato. Sì, ma tu da dove stai misurando già? Te l'ho detto, da sotto la molla. Perché se tu la misura gliela fai da sotto, non va bene. Deve fare la vece, la vince la molla, lasciando perdere la resina, capito? Dove c'è il primo aggancio della molla, misuri da lì sino alla punta, e deve avere quella misura, altrimenti non fa. Ma alla fin fine non è che influisce quello, il TVI è perché o sei troppo vicino, o è troppo bassa, capito? O l'antenna sono a culo di scimmia già. Il problema è sempre quello. Poi io so che tu c'hai un bel baracchino, tranquillo, sereno, se stessi scacciavitato, capito? Perché magari può essere anche qualche rientro di RF, in caso il baracchino sia modificato, eccetera, ma tu non hai questo problema. Quindi sicuramente devi cercare di allontanarti il più possibile dalle antenne TV e alzarti all'impicco. Sali già, notti miri, buoni diranti, mazza. Ah, va bene, se non è 10 sarà 8, però ti ripeto, staccati il più possibile dalle antenne e alza. Se hai bisogno, chiamami, non c'è nessun problema, tanto mi. Sto aspettando, mi chiami Antonello per andare a sistemarle la radio che ha preso. Capito? Che c'è un problema sulla colonnina, vado lì a vedere cos'è. Praticamente ha detto di pigliare il corso ogni volta che la senti, vediamo cos'è, se qualcosa che posso fare gliela faccio, se no lo spedisce in azienda, capito? Quindi magari quando sono a produttore se ti chiamo e tanto scendo di sabato, fine settimana, durante la settimana non ci posso scendere. Lo vediamo, se posso darti una mano già volentieri, però il lavoro va fatto così, all'impicco l'antenna deve essere alta e lontana dalle antenne TV, se no hai sempre problemi. Tu che zona sei? Lì dove abitava di Principe di Piemonte verso via Bari, Fontana Vecchia, ma anche Ferrando, allora c'è l'officina Rando dove abitava Francesco Muricio, lì. Ah, ho capito. Lì già c'è un bel palazzo alto anche. Sì, ho capito dove sì. Vabbè, lì bisogna cercare di sollevare il più possibile già, perché se non sollevi è un casino. È una bella zona quella, infatti sei Santiago 8, Radio 5, con pochi watt stai uscendo, già lo vedo. Non ho capito, non ce l'avevo già detto, è arrivata una scarica. Ah sì, qui sei tu. Ma quella non è via Rosselli, cos'è? Che via è quella? Vabbè, ma si entra via Rossini. Già lo so, ho capito. Infatti quella strada non è asfaltata. Non è asfaltata quella strada. E tu sei lì. Ho capito già. Però ti ripeto, lì bisogna cercare di uscire il più possibile dalla situazione antenne, perché sennò avrai sempre grande rottura di balle già. Colpi di 20 zinco cosa? Dipende, io ho per esempio nel K c'è lo smitter, nel 440 c'è lo smitter in alto, no? Il segnale dello smitter. Poi c'è in mezzo la potenza e sotto le stazionarie. Se in posizione watt ti segna il watt, se in posizione normale non ti segna nulla. Ma che radio è? Ah, 725, sì. Già sta segnando bene, l'ho avuto io. Ma 725 è quello con lo sportellino, Quello che c'ha lo sportellino con gli slider. Ah no, quello forse 735, 735. No, già va bene, 725, sì. E quello che c'è a 6 metri, no? Arriva sino a 50 mega, quello lì è. No, allora non è questo, la sto confondendo io. Castano ha fatto una marea di chi si radio. Meglio anche avuto io il 725. Mi ricordavo che aveva lo sportellino con gli slider per il Mickey Game, Squelch e tutte queste cose così, bellino. Tutta la strumentazione verde aveva. E più o meno un po' più piccolo del 140, là. È simile a quello che avevo io, al 275 H, una cosa del genere, piccolo così, però già vanno bene. Già, perché l'antenna non risuona bene lì e l'accordatore ne risente, capito? Sicuramente è per quello. Sì. E c'è anche le bande varche. È come la T230 che ho io, fa 1,5, quindi 160 metri, 80 metri, 40 metri, fa, per dirti, 1,5, 3,5, 7, 10, 14, 18, 21, 24,5 e 28. Capito? Esce fuori banda, cazzettina da 6.000, le antenne sono tarate per quello, già. Se ne vai a 6.000 è chiaro che magari ti accorda ma con molta difficoltà, se invece lo metti in 40 è la sua banda, perché tutte le antenne fanno 7, 14, 21, 28, capito? Oppure fanno quelle a 5 bande, sono 10, 15, 20, 40 e 80 metri, quindi sono 5 bande. Se tu scendi più di quello, ti accorda ma con difficoltà. Gaiese, va bene, ok, dai. Va bene Gianni, dai, mi sposto un attimo, sono entrato a salutare a Daniele e a Luca e mi sono trattenuto, dai, piacere averti ascoltato. Stavo cercando a Chiodo Ruggito, a Claudio Di Muro, so farle sentire questo Midland, però ancora non c'è, semmai. Entro più tardi a farglielo ascoltare, dai, che lo voleva sentire. Ok, ciao Gianni. Un abbraccio, già ci ascoltiamo, dai. Comunque, te l'hai giudito, se hai bisogno, zecami. Già scendo anche io a darti una mano, ok? E già c'è l'Antonello, gli ho dato, c'è lui e Claudio, tutti e due. Glielo dici, mi chiamate, scendo, così vediamo un po' di sistemarla bene questo cazzo di antenna, perché sennò ti crea problemi già. Ed è un travaglio fatto male, perché hai sempre rotture di scatto. L'accordatore del 140 è la T250, ma costa più della radio, Se compri la radio a 200 euro, l'accordatore lo trovi a 250. oppure vabbè, si può trovare, anche io ce l'avevo, l'ho venduto 200 euro, figurati tu. AT250 automatico, oppure qualcosa di manuale, c'è quello della, come si chiama, Vectronic, Driver, già ce n'è accordatori, dai, Magnum, però sono costosi, perché sono accordatori professionali, capito? AT250 dell'accordatore di linea, da 140 proprio, si può attaccare anche al 430, capito? No, l'hanno fatto per la linea 140, bellissimo accordatore, velocissimo, decametrico praticamente, c'ha tutte le bande, fa tutto lui, tu che ci l'hanno portato, lo buono automatico e do accorda, vum vum vum, come quelli che ci sono dentro le radio, la stessa cosa, solo che l'hanno fatto esterno, molto molto bello, con lo strumento sino a 200 watt, ti misura, fa lo smetro il wattimetro, è accordatore automatico, capito? Fammi sapere, ciao Gianni, un abbraccio, buon fine domenica e buon inizio per domani, già ci aggiorniamo. Vai, Antonio, fatti il numero, se hai bisogno chiamami, ciao. No, per lì come devi prendere TS100 mi pare, adesso mi ricordo, l'ST100, una cosa del genere. Ogni radio ha il suo accordatore automatico perché cambiano le connessioni e le polarità, si può modificare ma non ti conviene. C'è l'accordatore suo per il 725 della ICO. Registrato, non me lo ricordo come si chiama l'ST100 o cosa. Tu digita al computer accordatore per IC725 e te lo dà in automatico. Oh, un attimo, vabbè, che amico è? Oh, che ha trovato il rapportatore Sergio? Ah, pensavo Sergio Sanna. Ehi, Sergio, boppetta, che salutamo, va bene, c'è un break qua a Sassari, oggi, vabbè, ti saluto, lo faccio entrare, avanti break. Ciao, Davide, buonasera, ben ascoltato, non so se state ascoltando a Gianni Dischetto la portosa, ma penso di no. Bene, bene, va, lo sto usando, mi hanno detto tutti che va bene, con l'MB più 5, intorno ai 10 watt sta modulando, penso che vada bene, no? Grappa, grappa, grazie a Gianni. Lo sai che tuo padre con me c'ha un ultimo rapporto, quindi non la voleva dare, so che qualcuno gliel'aveva già chiesta ma non gliel'ha data, però con me già molla sempre, noi ci facciamo cortesie reciproche, quindi no, sono molto contento perché è molto bella esteticamente, infatti l'ho fatta vedere a Luca e mi ha detto caspita, molto molto bella, molto molto bella, e poi c'è una bellissima ricezione come tutte quelle categorie lì, perché c'hanno l'altoparlante davanti e va veramente molto bene, capito? Beh, ti ringrazio, io lo sai, le radio, hai visto quel pomma come nuovo, tutto bello lucidato, infatti gli ho lasciato a tuo padre lui con calma a mettere quel commutatore nuovo, io già c'ho questa, già c'ho anche l'altro baracchino, però ho attaccato questa e va veramente bene, ho dovuto invertire la polarità di un filo dell'MB più 5, fortunatamente ne ho due, non ho toccato quello del Polmar, ho invertito l'altro e questo non è neanche modificato il microfono, questo è MB più 5 normale, la capsula solo è cambiata, però modifiche non ne ha, ma spinge che è una bellezza, io... Ci abbiamo scambiato un sacco di cose, quindi tutte quelle che avevo, già lo sai, quelle che sono in garage, quelle le avevate tutte io, ce n'erano funzionanti, non funzionanti, e quindi insomma, poi ci abbiamo fatto degli scambi abbastanza importanti, e perciò pensavo non me la dava, invece hai visto, già me l'ha data, eh. No, sono contento perché questa è una bellissima radio, ti ripeto. Non me la ricordavo, l'avevo vista da Franco di Sosso, però così di sfuggita, vedendola lì, cazzo, porca miseria che bella questa radio, adesso già è qua, infatti l'ho appoggiata qui sulla scrivania, nel frattempo che ritiro il polma, così le metto uno sopra l'altro, capito? Tanto c'ha i filtrini sotto, li ho messo, perciò non graffia, e la metto uno sopra l'altro. È iniziata là, no? Domani la inizia? Gappa gappa, quel console, tu c'hai il console primo, quello che ho detto io, la toppata. Fate la mamma così, ma è te la ghimo, gli dite, prendi, te la io, portati via anche questo. E l'avevo fatto, ecco l'ambra, stesso il console, esce molto molto bene, esce molto molto bene, quindi vabbè dai, l'importante è che sia tutto ok, la radio poi basta, vedi, un baracchinetto da niente, di vecchia data, una buona posizione e arrivi da tutte le parti. Beh, quello che ho dato col cuore io, perché era il mio baracchino preferito, solo io purtroppo in città, la 48, non posso usarlo. Guarda, l'ho attaccato anche ieri, mi pare avanti ieri, giusto per farlo andare un pochino, l'ho rimesso anche all'armadio, perché non si può, non si può, si sente addirittura, sento anche quelli del canale 23 che sono molto distanti da me, è una cosa pazzesca, è veramente un bel baracchino da usare, però è un baracchino che puoi usare solo in macchina, perlomeno qua in città Sassari non lo puoi usare, tu lo puoi usare perché grazie a Dio non hai nessuno che ti rompe le scatole, in paese non ce ne sono altri e quindi non prendi colpi, ma io sento tutto e quindi non mi va. L'ho staccato e l'ho rimesso dentro l'armadio, adesso sto usando questo, infatti è abbastanza selettivo anche questo, eh? Abbastanza selettivo, adesso vediamo poi stasera se c'è qualcuno, mi sposto per fare delle prove di canale, se sento splatter, ma non penso, perché è molto silenziosa come radio. E sì, alla grande qua, alla grande, qua se lo smitter è giusto, devo fare le cose, le comparazioni col Polman, poi vediamo, però sei quasi 9 più 20, quindi va bene, radio ottima, 5 perfetta, senza prosicla, ma neanche io ne ho attaccato, perché io te li do, visto che sei giovane, magari se te lo vuoi personalizzare, te lo personalizzi, però io non le ho mai attaccate, perché non mi va di cipaccare le radio, io le lascio tutte originali come sono, perché se poi vai a darlo, non te lo comprano perché dicono che è pastorizzato, capito? Non mi interessa. E quindi davanti a te. Se te le vuoi attaccare te le attacchi e se me le lasci dentro il cassetto. Se te ne capita un altro, magari col frontalino un pochino messo male, te lo personalizzi.